Bella ragaz, bentornati e bentornate alla Finestra sul Giardino, la nostra miniserie che indaga il mondo delle piante e il mondo degli umani. Oggi faremo insieme alle nostre amiche piante un viaggio in un carcere, ma prima sigla! Eccoci qua, grazie ancora alla mitica sigla di Roby. Oggi mi faccio da parte e vi lascio nelle mani di Caro e Matte, che vi racconteranno come in una delle più grandi carceri d'Italia è nato un vivaio. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money. Ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind. Ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name. Got my hair, got my head, got my brains, got my ear, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex. I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life. I've got my freedom, I've got life. I've got life, and I'm gonna keep it. I've got life, and nobody's gonna take it away. Bene, nelle scorse puntate abbiamo indagato le teorie di Gilles Clément sul giardino in movimento. Oggi invece ci tuffiamo nella pratica e proviamo a immergerci in un giardino che vive in un posto che è quasi l'antitesi del movimento, il carcere di Bollate. Cascina Bollate è un vivaio specializzato situato all'interno del carcere di Bollate di Milano, con forma di cooperativa sociale, quindi a tutti gli effetti professionale, dove lavorano stabilmente 6 giardinieri detenuti, di cui una parte usufruisce della possibilità di lavorare all'esterno tramite l'articolo 21 della legge sull'ordinamento penitenziario. Tu, Caro, che hai fatto un lavoro di ricerca antropologica all'interno di questo vivaio, vorresti prenderci per mano e condurci in questo spazio angusto, ma comunque a suo modo eccezionale nel panorama penitenziario nazionale? Ciao a tutti e a tutte. Prima di immergerci in questo interessante mondo sociobotanico, vorrei salutare con il cuore i giardinieri detenuti con cui ho svolto il lavoro di campo per il lavoro di ricerca. In questa puntata li chiamerò giardinieri e non giardinieri detenuti, perché per me sono in primis giardinieri e colleghi. Saluto anche Susanna Magistretti, vivaista, creatrice di questa realtà, nonché presidentessa della cooperativa sociale, e poi saluto i 2 giardinieri e agronomi esterni che lavorano in loco. Accolgo il tuo invito a questo punto, Matte, e a prendervi per mano e accompagnarvi in vivaio a Cascina Bollate, offrendovi delle immagini che penso possano essere esplicative per il nostro discorso sul giardino in movimento e lo sguardo che lo accompagna. Una passeggiata, possiamo dire, virtuale che non ha lo scopo di rassicurare o far apparire questo spazio idilliaco e lontano dal campo penitenziario in cui è inserito, ma che evidenzia lo status liminale, interstiziale che incarna il vivaio e quindi l'ampliamento della gamma di possibilità e di intervento che offre, insinuandosi nel quotidiano dei giardinieri che lavorano in loco. Quando si arriva a Bollate, per entrare bisogna passare il primo ufficio di controllo, poi un grande parcheggio, poi il secondo ufficio di controllo, poi il metal detector. Poi bisogna attraversare un lungo corridoio e aspettare che ti aprano la porta che poi ti dà l'accesso all'intera struttura penitenziaria. Il ritmo del tempo, la fisiologia dello spazio, tutto il rumore, tutto afferisce alla dicotomia dentro e fuori. E così come anche gli iter istituzionali implicati in impulsi classificatori e normalizzanti legati alla logica egemone del delitto e del castigo. Potremmo insomma stare qui una vita a parlare delle problematiche costitutive del penitenziario, ma quello su cui vorrei concentrarmi oggi è lo scarto che si viene a creare tra i percorsi consuetudinari, cosiddetti risocializzanti del carcere, basati sulla deresponsabilizzazione e omogenizzazione della popolazione carceraria, e quelli invece stimolati nello spazio del vivaio. Prima di continuare il nostro viaggio itinerante, penso sia importante precisare che il vivaio si trova nel carcere e deve creare dei punti di incontro con la sua regolamentazione e il suo campo relazionale. Non si pone fuori dall'istituzione, ma si distribuisce proprio nei suoi interstizi. Le relazioni che si instaurano qui non si costruiscono come se fossero fuori, ma rendono possibile la condivisione di un luogo che svia le condizioni basilari per l'espiazione della pena, in primis la disconnessione con il tempo, con lo spazio e con la storia e la conseguente impossibilità di azione su queste tre dimensioni. E sono proprio questi aspetti che vorrei inseguire con voi in questa passeggiata. Frase nostra rivoluzione, il suo suono nuovo, sai che è malamore. Sì, farò in macchina, fumando in coppe cuofre, prime fati con microfono, e cosa rossa a chi ci prova, e troia a chi si trova, Luca produce, e tinte strofe, i poveri, e non fama che ti fanno muovere, se Dorione chi sta rindo per sta buona, a moglie spenne e se pompa, aglione che penne, Dorione, taglio a vera, ti affrontati a due barbiere, poi da roba, tremma mentre a stregno ferro, capo te non l'ombra, frate contro a frate, mettete pure la mano in fronte, ma nata le zago, ma capi chi porti in masciata, sto mondo zoppo non so piglio meglio di nulla. Butto l'acqua perché l'aria chi ne raggia fra, so frate incatenato, la vita scorre innanzi a luce mentre fui fra, sto camisciando, caffè, latte, cappuccino, femma una rirena, ya capa mica non cammino, sono cresciuto con chi venne, cagna e marci in mano, sembrava studio fermata, senza bisogno dei pate e mo, c'è vira rinde in macchina, che rode più grosse, le capa nostre fanno apposta, si ci guardano, ma io sono classica, pisciazzi le napana, casa senta da Alessia, roba fallo già cattiva, dice chi fa tutto quanto tutta coca che si tira, non coppe sposarsi, ci sono stata a tu sacciro là, mi rappresenta Vito Vera, quello che manca, coppe righiera, tu piacere, sa misura a strisce, ammirazione, perché è ricco senza rischio, a strada come ispirazione, c'è dove Dorione, non mi sento buono, mamma, che mi succede, i frati mi soffumano ancora, dinde frase nostra, rivoluzione, tizio suono nuovo, sai che è malamore, c'è dove Dorione, non mi sento buono, mamma, che mi succede, i frati mi soffumano ancora, dinde frase nostra, rivoluzione, il suo suono nuovo, sai che è malamore. Casabina cinta, cano 21 e cellulare squilla, ne faccio guarda in schina. Quando costa, costa e vira sotto all'occhio, roba scava. A strada rata, nata esame, non ci pare strano. E mano in mano, che i figli nuovi si fanno uomini. Prima si fa rossi, che so sai che faccio rossi. I mostro qua, con fono in mano, aspettando con sangue papara. Guardando i conti trasere, tutti i fratelli. Prima bene, ne poi moro, ne si abbruciano. Quattramente rima, non si sono, ne ci mandano. 1500 guardi. E tu mi fermi la magone lui perché fa male lui. Abietta a nulla, sacci capace in utopia, perché si porta a raggi mie sa via. Perché se tarantella si mangia la faccia mia, e non so stanco, e tu mi danni, e tu mi pigli. Ammiri il rosa, e ammiricina la musica, tu che marisci, e cresco muscola e vene, e carica senza tabacco, senza. Ecco appunto, allora torniamo un secondo a quella porta che bisogna farsi aprire dopo tutti i controlli di protocollo. Il mondo esterno è fuori, ormai noi siamo dentro. Cosa vediamo esattamente? Dopo che si oltrepassa quella porta, ci si trova di fronte all'area trattamentale. Da lì poi partono le 6 sezioni maschili del carcere. A sinistra invece si prende la strada che poi porta al vivaio e che possiamo dire si propaga come un rizoma tra tutti i blocchi di cemento del carcere. La sezione femminile, la sezione maschile, l'area visita, la scuola. Un grande giardino in cui emergono infiniti processi di crescita della collezione botanica, mai definitiva del vivaio. Dico collezione mai definitiva perché viene arricchita in itinere anche da scambi e proposte dei giardinieri in loco. Insomma, ci si trova improvvisamente di fronte a un patchwork di ambienti diversificati: la sera calda, il frutteto, l'ombraia, la zona in pieno sole, la sera fredda, il roseto. Ok, però spesso in carcere gli spostamenti vengono imposti da un iter ripetitivo, limitato nello spazio e comunque secondo regole ferme. Il tempo è scandito secondo un certo ritmo e anche lo spazio incarna le logiche marginalizzanti e gerarchiche che possiamo immaginare. E il vivaio è comunque in carcere, quindi quale tipo di rapporto instaurano con lo spazio e il tempo i giardinieri? Infatti, a questo proposito mi viene in mente una citazione di Gallo e Ruggero che sottolinea gli aspetti che hai menzionato riguardo lo spazio e il tempo del carcere. Il carcere immateriale è, al contempo, restrizione senza fine, interiorizzazione di un infinito senza tempo. E in vivaio questi aspetti come vengono affrontati, mi chiedi? Vengono effettuati spostamenti e movimenti in relazione all'evoluzione sociobiologica delle specie presenti. Nella sera calda vengono coltivate da seme o talea le neonate della collezione. I semi vengono recuperati dalle infiorescenze delle piante che abitano il vivaio o dagli scambi tra i giardinieri, oppure ordinati e selezionati dalle ricerche nei cataloghi di altre aziende sementifere. I giardinieri poi aspettano il momento adatto per trasferirle all'aperto. Quando il loro impianto strutturale è pronto per affrontare il movimento dato dall'ambiente, le traslocano nei vari spazi del vivaio, adatti alle esigenze peculiari dei loro processi di crescita. Quindi le spostano dopo un'attenta osservazione dalla germinazione alla formazione identitaria della specie. Quelle da mezz'ombra vengono spostate sotto il frutteto, quelle da pieno sole nelle zone aperte come quella che confina con la sezione femminile. Nel laghetto vengono inserite le acquatiche. Sembrano tutti aspetti banali, ma in realtà non sono scontati né in molti vivai e men che meno in carcere. È molto raro incontrare pratiche di attenzione verso l'alterità, mentre sono purtroppo più comuni l'intervento e la trasformazione dello spazio basati sull'industrializzazione delle pratiche, la meccanizzazione dei tempi, sulla creazione artificiale degli spazi. Facciamo un esempio. Come abbiamo detto, le piante da mezz'ombra, cascina bollate, vengono inserite sotto il giardino di frutti. E non è pratica diffusa nel mondo del florovivaismo inserire le piante da mezz'ombra sotto un giardino, che ovviamente è più difficile da gestire perché è in movimento, a differenza di una sera ombreggiata. E non è neanche, per esempio, scontata la produzione delle proprie piante da seme, spesso addirittura raccolte direttamente dai fiori delle specie presenti. Il vivaio subisce continue variazioni, deterritorializzazioni e nuovi assemblaggi architettonici in relazione ai saperi, le abilità e le soggettività degli abitanti del luogo, in questo caso i giardinieri, le piante e gli esterni. Si mette in atto proprio quel rapporto di reciprocità e di movimento con l'alterità che viene invece arrestato nei percorsi consuetudinari penitenziari e anche, come abbiamo detto, in un certo modo di fare giardinaggio e vivaismo. Benissimo, infatti sappiamo che non è affatto una consuetudine una gestione del verde che presupponga l'attenzione all'agency delle piante. Anzi, siamo abituati a vedere le rose fiorite tutto l'anno, le monoculture intensive, il dominio dei processi di crescita tramite le biotecnologie, l'uso dei fertilizzanti invasivi, dei diserbanti dannosi. Insomma, in che modo viene gestito a cascina bollate il movimento delle erbacee vagabonde? Allora, il diserbo che hai menzionato a cascina bollate è un'altra di quelle pratiche che evidenziano la nostra cara attitudine del giardiniere del giardino in movimento. Viene fatto a mano ed è un diserbo che, come l'ha chiamato l'agronomo del vivaio proprio, un diserbo colto, selettivo. Ci potrebbero essere tante specie interessanti da rinvasare, saltate da un vaso alla ghiaia, da un vaso all'altro. Infatti, a questo proposito, un altro aspetto che distanzia cascina bollate dal vivaismo più diffuso è la coltivazione anche di quel tipo di piante, come le vagabonde, che spesso attecchiscono dentro venendo da fuori e che poi a volte vengono inserite nella collezione del vivaio. Sono le piante che, come abbiamo visto nella puntata precedente, avviano sorprese e imprevisti, che di solito vengono marginalizzate nelle banlieue dei giardini, che vengono falciate a tout court e che spesso scavalcano anche fisicamente il confine carcerario con la loro alta capacità di viaggiare mediante i vari metodi sociobiologici che abbiamo visto nelle varie puntate. Uso la parola sociobiologico così insistentemente perché penso sia importante evidenziare l'interdipendenza dei due termini. Possiamo rimandare a molti studi che sottolineano questo aspetto, dall'antropologia medica alla biologia dello sviluppo alla fenomenologia, e non è questa la sede per approfondirli, ma penso sia utile continuare a sottolineare che l'attenzione al legame di reciprocità tra la dimensione del sociale e quella biologica sia il presupposto basilare per sviluppare il discorso sul giardino in movimento e tutti i mondi storici e culturali che incarna. Possiamo dire quindi che la trasformazione e la crescita della flora biologica è profondamente legata alla rete sociale complessiva, umana e non, di questo luogo. Sì, questo modus operandi crea le condizioni per la possibilità di rielaborare il piano in relazione al movimento dell'ambiente. Quando piove cambia il programma lavorativo. Se le piante non le carichi di additivi chimici, la relazione tra le piante e lo spazio-tempo non può essere prevedibile. Sussiste un dialogo con il ritmo incostante delle stagioni e viene preservata l'attitudine all'attenzione, per esempio con l'annaffiatura. In tante zone bisogna annaffiare a mano e non c'è l'impianto meccanizzato, l'impianto di irrigazione. E il dosaggio dell'acqua quindi viene misurata e cambia in relazione alle stagioni e alle piante. Il giardiniere quindi è portato ad avviare continue traslazioni dalle cornici temporali, territoriali, carcerarie di riferimento a quelle delle specie botaniche, dalla regolamentazione e codificazione penitenziaria a quelle dello spazio socio-professionale in questione. Diciamo che l'imprevedibilità del tempo e dello spazio sociobiologico rappresentano una garanzia di resistenza al tempo e allo spazio del penitenziario. Abbiamo visto che l'approccio di chi fa sua la teoria del giardino in movimento presuppone il non slegare le piante dal loro decorso storico con falciature o potature immobilizzanti di sorta. Se anche dentro al carcere viene bloccato il rapporto con la storia. In quale modo il vivaio aiuta a riconnettersi con la propria dimensione biografica? Sì, infatti in carcere lo spazio e il tempo vengono congelati, imbalsamati nella loro reiterazione e uniformità. I detenuti vengono slegati dalle loro storie di vita, la storia comincia dal reato e continua con l'esclusione totalizzante della vita sociale. In vivaio vengono invece creati dei riallacciamenti con la propria storia di vita, attraverso la coltivazione di piante del proprio paese di origine. Per esempio, un giorno un giardiniere che proviene dalle Filippine ha inserito nella collezione botanica del vivaio dei tuberi di Calocasia esculenta, una pianta meravigliosa che proviene dal suo paese d'origine, dove viene utilizzata a scopo ornamentale, alimentare, persino simbolico. Questo ha creato delle possibilità di rivisitare i ricordi, ricontestualizzando e creando dei ponti con la storia di vita fuori. E lo stesso vale per i frutti, le verdure, le aromatiche che vengono coltivate, scambiate, cucinate, osservate. Le forme, i colori, i profumi, l'utilizzo simbolico e materiale delle piante sono tutti elementi che producono allacciamenti con un peculiare paesaggio socio-biologico di riferimento, da cui i giardinieri in loco sono stati slegati in toto. Se ci pensate, infatti, ognuno di noi, ogni storia di vita fa riferimento a un determinato paesaggio estetico e sensoriale. La nostra passeggiata sta finendo, la giornata volge al termine, il tempo nel vivaio è quasi finito, almeno fino a domani. Caro, ci accompagni fuori? Sì, vorrei chiudere questa passeggiata leggendovi un estratto del mio diario di campo. Alla fine della giornata lavorativa, dopo aver fumato una sigaretta e bevuto un caffè sulle panchine di fronte alla serra calda, ci avviamo insieme verso l'uscita. Percorriamo, chiacchierando, il lungo cammino costeggiato dal grande muro penitenziario fino al cortile di fronte all'area trattamentale. Una volta qui, i giardinieri girano a sinistra e io, l'agronomo e a volte il volontario, ci voltiamo verso destra. Suoniamo il pulsante per avvisare di aprire la porta e ci accingiamo verso l'uscita. Tali momenti sono stati fonte di numerose riflessioni da parte mia. Questa separazione decreta quotidianamente la distanza che vige tra noi, nella sua cruda fisicità, e forse questa sensazione è ancora più forte dopo una giornata vissuta quasi alla pari, in uno spazio quasi riterritorializzato, in cui per un po' ci si è potuti quasi riappropriare del tempo. Vorremmo lasciarvi con una breve riflessione. Oggi abbiamo visto un piccolo pezzo dell'esperienza di un'antropologa che va in carcere a fare la giardiniera mentre fa anche ricerca. La realtà di una cooperativa fondata da una vivaista di formazione che però di fatto finisce per occuparsi di lavoro sociale nell'istituzione penitenziaria. Poi le storie di alcuni detenuti che ricostruiscono la propria storia di vita e magari addirittura il loro futuro professionale. Insomma, se non altro, queste cose ci possono insegnare che l'adattamento è una ricchezza, che a volte i nostri ruoli sociali possono essere ripensati con risultati se non altro sorprendenti e che è interessante lasciare aperta la nostra cara finestra sul giardino in modo che l'aria giri il più possibile. Di respirare la stessa aria d'un secondino non mi va, perciò ho deciso di rinunciare alla mia ora di libertà. Se c'è qualcosa da spartire tra un prigioniero e il suo piantone, che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. Che non sia l'aria di quel cortile, voglio soltanto che sia prigione. È cominciata un'ora prima e un'ora dopo era già finita. Ho visto gente venire sola e poi insieme verso l'uscita. Non mi aspettavo un vostro errore, uomini e donne di tribunale. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare. Se fossi stato al vostro posto, ma al vostro posto non ci so stare.